Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. È una puntata speciale del cacciatore di libri perché è in corso, ormai siamo agli sgoccioli, il Festival Letteratura di Mantova, che è il festival letterario più antico d'Italia, possiamo dire così. E questa è la 18ª edizione. Sicuramente il Festival Letteratura di Mantova è un po' il festival di riferimento per chi ama i libri, siano essi saggi o romanzi, insomma. E qui si radunano per qualche giorno, insomma, scrittori provenienti da tutto il mondo, quindi scrittori italiani ma anche scrittori stranieri. Quest'anno c'è stata una diminuzione forse delle presenze degli scrittori stranieri, ma insomma relativamente perché insomma c'è la crisi ed è più difficile, più oneroso far venire dall'estero gli scrittori. Ma comunque andiamo alle cose serie, insomma, andiamo a parlare di libri. Mi piace iniziare questa edizione speciale del Cacciatore di Libri con una citazione, che è quella che ha fatto lo scrittore americano Jonathan Gottschall proprio qui al Festival Letteratura di Mantova. Ha scritto un libro che si intitola L'istinto di narrare, pubblicato in Italia da Bollati Boringhieri. E in questo libro sostanzialmente lui sostiene questa tesi, dimostra in sostanza come la finzione sia la più antica e potente tecnologia di realtà virtuale che simula i grandi dilemmi della vita umana, insomma la narrazione al centro dell'uomo, e possiamo dire che a Mantova si celebra esattamente quella, la narrazione in tutte le sue sfumature. C'è stato quest'anno anche il telegramma augurale del presidente Napolitano, che ha definito il Festival Letteratura come un'occasione tanto preziosa quanto feconda. Particolarmente stimolante, ha aggiunto Napolitano, è il forte richiamo al tema della memoria. Il riferimento in questo caso è anche al fatto che quest'anno qui al Festival sono stati organizzati diversi incontri in occasione del centenario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Dicevamo scrittori stranieri, scrittori italiani, scrittori famosi e scrittori meno famosi, perché il bello del Festival Letteratura, come di molti altri festival, è che si mettono insieme appunto i nomi noti che il pubblico già conosce, ma c'è la possibilità anche di fare delle scoperte. Magari si va a seguire un incontro perché si è incuriositi dal titolo, o magari c'è stato un passaparola su un determinato autore e si finisce per scoprire uno scrittore o un libro veramente interessante. Fra i nomi noti quest'anno, diciamo, partiamo dagli stranieri, insomma, due premi Pulitzer, Elizabeth Strout e Michael Cunningham, che chiuderà il Festival Letteratura di Mantova domenica sera, insomma, l'evento conclusivo sarà appunto affidato a lui. Elizabeth Strout aveva vinto il premio Pulitzer nel 2009 con la raccolta di racconti Olive Kitteridge. Ora invece in Italia il suo ultimo libro pubblicato si intitola I ragazzi di Burgess. La critica l'ha spesso avvicinata ad autrici come la canadese Liz Munro, che proprio l'anno scorso vinse il Nobel per la letteratura. A proposito di questo suo ultimo romanzo, è la storia sostanzialmente di tre fratelli, due maschi e una femmina, Susan, che insomma sono originari del Maine, dove vive la stessa scrittrice, e finiscono però per allontanarsi. I due maschi vanno via e la sorella rimane da sola finché a un certo punto ha bisogno dei fratelli perché è successo qualcosa. Ma sentiamo Elizabeth Strout. The eldest Jim just wants to get away from the tragedy that Jim, il fratello maggiore, se ne va dal Maine per cercare di sfuggire alla tragedia che crede di aver causato. Ed essendo particolarmente intelligente, riesce ad ottenere una borsa di studio ad Harvard, che è quello che gli permette di cambiare vita e di trasferirsi a New York. Bob, il fratello più piccolo, vuole un gran bene a Jim ed è molto legato a lui. Per questo decide di seguirlo. A un certo punto della storia, però, Susan ha bisogno dei suoi fratelli, li richiama in qualche modo. Che cosa è successo? C'è qualcosa che accade a suo figlio? Lei è spaventata. Suo figlio ha commesso un gesto molto grave. In più, i suoi due fratelli sono entrambi avvocati. Anche se non si sentono da anni, credo sia normale, nei momenti di difficoltà, rivolgersi alla famiglia. We often go right back to family when we're really in trouble. I think that's really what it was. Che tipo di rapporto c'è fra questi fratelli? Well, at the beginning they're pretty separated. I mean, certainly the brothers are separated from their sister. All'inizio conducono delle esistenze separate, o quantomeno i due fratelli sono separati dalla sorella. Jim è il re della situazione, ha un carattere forte. Bob è il personaggio di mezzo, va dietro a Jim. E Susan è un po' la dama che aspetta di essere salvata. The lady in waiting. In questo romanzo si tratta anche il tema delle tensioni e dei problemi razziali. In particolar modo il figlio di Susan commette qualcosa, adesso non entriamo nello specifico per non rovinare così il gusto della lettura, che viene interpretato come appunto un gesto razzista nei confronti della comunità islamica. Perché ha deciso di inserire questo tema nel suo romanzo? Mi interessa, è un tema che mi interessa molto. Il libro nasce da un episodio realmente accaduto, da un articolo che lessi un giorno su un giornale di quest'uomo che aveva gettato una testa di maiale dentro una moschea. Mi colpì molto. Così decisi di costruire un romanzo intorno a questo episodio. Nella fiction l'uomo è diventato un ragazzo, più giovane. Mi sembrava che l'episodio potesse rappresentare bene quello che nel mondo, ma soprattutto in quella parte dell'America, sta accadendo. Nomi italiani. Beh, nomi italiani ce ne sono qui veramente tanti, di qualsiasi genere, e avremo ospiti alcuni di loro appunto in questo speciale Festival Letteratura di Mantova. Fra i famosi però c'è stato anche un musicista, quindi non parliamo di uno scrittore, anche se uno che con le parole insomma ci ha giocato e ci gioca abbastanza in modo egregio. Parlo di Francesco De Gregori. Non si tratta insomma dell'ennesimo cantante che si dà alla scrittura, alla fiction, alla narrativa, ma era qui al Festival Letteratura perché ha presentato la sua biografia fotografica che si intitola Guarda che non sono io. E durante il suo intervento ha parlato di come nasce l'idea, la creatività in un artista, di come l'artista debba essere inserito nel contesto che vive, perché è proprio da quel contesto che lui trae ispirazione. Sentiamolo. Io sono molto permeabile a tutto quello, sì. Non so se lo sono più degli altri. Forse sono meno selettivo, mi lascio permeare da varie cose, alte, basse, e poi soprattutto nel momento in cui questo avviene, nel momento in cui vengo a contatto con qualcosa che mi piace, non ne sono nemmeno così cosciente. Questa cosa poi lavora in maniera sotterranea e riemerge nel momento in cui mi vado a scrivere una canzone, insomma. Diciamo questa parabola della spugna, cioè noi ci lasciamo riempire da tutto quello che ci sta intorno, assorbiamo e poi a un certo punto diamo una forma diversa a cose che comunque abbiamo annusato nell'aria, magari fin dai tempi della nostra infanzia, insomma. Si può anche dire che io scriverei anche se stessi su un'isola deserta, ma credo di no, però. Molti artisti forse scriverebbero anche perché c'è una necessità di esprimersi che, come dire, è urgente, e quindi chi se ne frega se poi qualcuno starà a sentire o no. Esiste anche questo. Però io personalmente considero l'arte una forma di comunicazione. Comunicare vuol dire pensare di avere qualcuno davanti a cui tu devi dire qualcosa, quindi l'idea del pubblico per me è importante. Però ecco, non è che per questo uno deve compiacerlo, il pubblico, no. Sapere che però quello che tu scrivi arriverà, ecco, che non sbatte addosso a un muro e ti ritorna, va nella testa di altre persone. Tu, come se scrivessi una cartolina, insomma, come se scrivessi un SMS. Nessuno scrive SMS e poi si rispedisce da solo, no? La canzone è la stessa cosa. Parole, parole, parole. Insomma, al Festival Letteratura di Mantova, come negli altri festival culturali, le parole sono, come dire, insomma, l'ospite principale della manifestazione. E quest'anno qui si è parlato anche proprio della lingua, dell'uso della lingua. Uno degli incontri è stato condotto dal linguista Giuseppe Antonelli, che si è soffermato soprattutto sulla differenza fra la lingua parlata e la lingua scritta. E allora l'abbiamo incontrato e la prima cosa che gli ho chiesto è: qual è lo stato di salute della lingua italiana. In realtà, per quanto questo possa suonare strano, che lo stato di salute della lingua italiana è complessivamente buono, anzi, per certi versi, la lingua italiana, possiamo dire, non è mai stata così bene, nel senso che non è mai stata usata da tutti gli italiani come succede oggi, perché fino, tutto sommato, a pochi decenni fa, molti italiani parlavano, usavano soltanto il dialetto. Non è mai stata scritta quanto viene scritta oggi, perché fino all'epoca del telefono, che ancora si usava per parlare, per telefonare, e di fatto finito l'ultimo anno di scuola o forse di università, nessuno che non avesse bisogno di farlo professionalmente scriveva un rigo, mentre oggi siamo tutti lì che digitiamo se non scriviamo. È chiaro che tutto questo comporta un'evoluzione, il fatto che tutti gli italiani la parlino ha cambiato nei decenni scorsi un po' le fattezze della lingua parlata, il fatto che adesso si scriva in questa maniera, su delle microtastiere e in occasioni totalmente informali, sta cambiando la lingua scritta. Fra un paio di settimane uscirà un suo libro dal titolo veramente accattivante, insomma, perché si intitola Comunque anche Leopardi diceva le parolacce, pubblicato da Mondadori. Insomma, qual è la tesi, in attesa di leggerlo, poi questo libro che sostiene? Ovviamente non è che bisogna dire le parolacce, è vero che nelle lettere private Leopardi ne usava abbastanza di parolacce. Quello che vorrei cercare di far passare come messaggio, ammesso che poi un libretto così, senza troppe pretese, abbia un messaggio, è che parlare bene, amare la propria lingua, usare nel migliore dei modi la propria lingua, non vuol dire, come si leggeva in Pinocchio, parlare come un libro stampato, appunto non vuol dire usare il difficilese, non vuol dire essere sempre in punta di forchetta, vuol dire avere più registri, più toni, più ottave, no? Come sul pianoforte possibile, che vadano dall'alto al basso e usarle a seconda delle situazioni, dell'interlocutore, dell'argomento. Questo vuol dire conoscere. Dunque si tratta di smontare, ed è quello che cerco di fare in brevi capitoli, una serie di pregiudizi sulla lingua italiana che rischiano di compromettere poi l'atteggiamento proprio di chi ama la propria lingua. Non è vero che parleremo itangliano perché la percentuale delle parole inglesi nei dizionari dell'uso non supera il 2%, non è vero che i dialetti sono morti o moriranno perché un terzo degli italiani dichiara all'Istat di mescolare italiano e dialetto. Non è vero, secondo me, che l'italiano digitale distruggerà la lingua italiana. Tornò a Leopardi per chiudere. Nelle lettere di Leopardi, come in tutte le lettere dei secoli scorsi, compreso l'Ottocento, si trovano tantissime abbreviazioni. Per cui, ad esempio, Leopardi, per dire dicembre, nelle date, scriveva Xbre. Non è così diverso, no? Dalla lingua degli SMS. E questo era il linguista Giuseppe Antonelli. Il cacciatore di libri. Riprendiamo con lo speciale Cacciatore di libri da Mantova, dal Festival Letteratura. Qui come sempre c'è un pubblico molto variegato, insomma c'è il lettore forte che cerca determinate cose, magari cerca di scoprire nuovi autori, e c'è invece il lettore meno forte che va alla ricerca magari dello scrittore che già conosce. Ecco cosa ci ha raccontato uno dei lettori del Festival di Mantova. Robe abbastanza easy, robe abbastanza, cose abbastanza da infotainment, informazione e intrattenimento, quindi non so, i giallisti che uniscono l'invenzione alla cronaca, le grandi firme del giornalismo, i protagonisti del mondo dello sport, insomma, diciamo quegli eventi, quei personaggi, quei protagonisti che uniscono magari, come possiamo dire, la parte più pesante, più pura della letteratura con ciò che vediamo intorno ogni giorno. Lo sentivate, questo lettore parlava dei gialli, insomma i gialli sono una delle sue passioni, e qui al Festival ci sono sempre diversi incontri dedicati al giallo, lo sappiamo, lo ripetiamo spessissimo, il genere più amato dagli italiani. Il giallo declinato in mille modi, insomma c'è il noir metropolitano, quello che indaga insomma sulla psicologia, c'è il giallo, il thriller introspettivo, insomma sono veramente tanti i sottogeneri, potremmo dire così, del genere giallo. E fra gli scrittori che ne hanno parlato qui a Mantova c'era anche Sandrone Dazieri. Sandrone Dazieri per anni ha diretto la collana dei Gialli Mondadori, poi insomma ha scritto lui stesso diversi noir, ha inventato il personaggio del gorilla, insomma questo ex detective che per indagare usa metodi non proprio ortodossi, mentre da poco è uscito il suo primo thriller, proprio un thriller all'americana, come dice lui, che si intitola Uccidi il padre. E allora chi meglio di lui per guidarci nei meandri dei sottogeneri del genere giallo? A lui la parola. Esiste come differenza, però è anche vero che i libri sono intercambiabili. È anche vero che in Italia si fa molta confusione su cos'è giallo, su cos'è noir, su cos'è thriller. Il 90% di quello che viene pubblicato come è un giallo, ma si dice noir perché è un po' più affascinante la parola francese, no? Giallo fa giallo Mondadori, collana che Che hai ho diretto diretto. per anni e che adoro. Ma insomma, però sai, da noi è un po' il gialletto, no? Invece il noir è raffinato, il noir è Maigret, il gialletto è Dazieri, no? No, questo è thriller, c'è scritto sulla copertina, Esatto, il thriller. thriller però dice: guarda, stai entrando in un mondo che non ha la pretesa di raccontarti il presente attraverso il filtro sociologico del crimine, eccetera, eccetera, quello che sono le balle che si raccontano sul noir, almeno quando lo cerca devono di venderlo gli editori. Ma è un qualcosa che dice: io attraverso la suspense ti racconto una storia. Ti faccio fare, come dicono scrittori americani, più bravi di me sicuramente, un giro sull'otto volante. Sali, avrai un sacco di paura, però ti divertirai e alla fine sarai contento di esserci salito. Ecco, questo è il thriller. Tu che sei anche appunto un avido lettore di thriller, noir e gialli, ti faccio solo la domanda buona e non quella cattiva, cioè un italiano che a te piace in questo genere? Perché insomma si fa molta, ci sono molte polemiche, gli italiani sono in grado di scrivere i thriller, sì, però li scrivono all'americana, anche tu prima dicevi che comunque il tuo stile si rifà un po' ai thriller americani. Diciamo c'è una scuola, la nuova generazione del noir, faccio una breve digressione, che è quella che ha cominciato a scrivere a fine anni 80, inizio anni 90, eccetera, in cui siamo io, Lucarelli, un sacco di gente, ha preso la scuola americana perché era quella più vicina ai nostri gusti. Perché la scuola americana diceva: guardate, c'è una tecnica per la suspense, c'è una tecnica per il thriller, c'è un modo di raccontare le cose, non è solo ispirazione, poesia, poetica, c'è anche tecnica. E l'America ci ha insegnato molto. Però non abbiamo detto: noi copiamo gli americani, questo non ci interessa. Diciamo, noi abbiamo studiato le tecniche e le abbiamo applicate però su dei moduli nostri. Chi mi piace in questo genere? Beh, mi piacciono tanti autori italiani. Però devo dire che la maggior parte degli autori italiani non fa thriller. La maggior parte degli autori italiani fa il giallo. Questa è la cosa vera. Perché è più rassicurante. Però qualcuno c'è, insomma, Carrisi è uno, per esempio. E ti piace? Sì, Carrisi mi piace, però non è. Ce ne sono altri, c'è Costantini che mi è piaciuto molto. Beh, per me il miglior thriller italiano mai scritto è Olmos Blu di Lucarelli. Questo, diciamo, almeno tra i suoi progenitori, e lì da lì tutti ne discendiamo. Poi, ovviamente, c'è stato Faletti, che ricordiamo sempre con affetto. Insomma, ce ne sono, però siamo pochini. Alla fine si tende a scrivere altro. E questo era il giallista Sandrone Dazieri. Oltre al giallo, oltre ai thriller, ai noir, c'è un'altra letteratura che viene considerata un po' di genere, usiamo questo termine così fra virgolette, ed è la letteratura umoristica. In Italia, non dico che sia snobbata, ma diciamo che i critici non la tengono in grandissima considerazione, mentre per esempio ha grande successo sia di pubblico che di critica nel mondo anglosassone. Insomma, facciamo dei nomi, Alan Bennett, Woodhouse, insomma, hanno fatto la storia in questo senso. Però anche in Italia ci sono diversi esponenti della letteratura umoristica. Ed erano presenti anche qui al Festival di Mantova perché ci sono stati diversi incontri appunto sulla letteratura, sui libri che fanno ridere o semplicemente sorridere. Possiamo annoverare fra gli scrittori di questo genere, fra gli scrittori italiani di questo genere, sicuramente Diego De Silva. E ultimamente ha partecipato insieme ad altri scrittori ad una raccolta pubblicata da Einaudi che si intitola Figuracce. Cioè, gli autori, gli scrittori si sono confessati a cuore aperto, hanno raccontato le gaffe o le figuracce che hanno fatto nella loro vita. E allora sulla letteratura umoristica sentiamo Diego De Silva. A me personalmente leggere e ridere è una cosa che piace molto. Attenzione, non voglio essere frainteso, bisogna che si parli comunque di letteratura. Non sopporto gli scrittori che fanno macchietta, ecco. I barzellettari non mi interessano. La letteratura deve rimanere letteratura. Poi Però ecco, l'idea di far ridere quando leggi mi sembra una cosa molto bella, cioè dare anche alla lettura, rompere il patto di seriosità è una cosa bella ed è anche molto difficile, perché poi effettivamente il registro comico è come anche nella recitazione, no? Se ci pensi bene, il registro drammatico è più facile di quello comico. È molto più difficile far ridere che commuovere. E nella pagina scritta questo è ancora più vero, perché tu non hai nessun altro supporto, non hai scenografia, non hai nulla. Il lettore è solo col suo libro, guarda la pagina e se ride vuol dire che non soltanto si sta divertendo, ma è d'accordo con te. Ai lettori la narrativa ironica, appunto divertente, piace. I critici invece tendono un pochino a, non dico disprezzarla, insomma, ma non si sforzano più di tanto. In questo senso c'è un pregiudizio da parte della critica italiana. Ma sì, da parte di una critica poco sincera anche con se stessa, secondo me. No, se poi c'è il pregiudizio della seriosità, come se il far ridere debba di per sé essere un modo di tradire la letteratura. Non so, chi ha questo pregiudizio secondo me è ancorato a un modo di vedere stupido delle cose, perché un bravo scrittore sai valutarlo comunque, insomma, non è neanche detto che se tu sai far ridere non sia un bravo scrittore. E fra gli scrittori che hanno parlato di letteratura umoristica qui a Mantova, sicuramente Michele Serra. Michele Serra ha avuto un grande successo nell'ultimo anno con il suo libro Gli sdraiati, pubblicato da Feltrinelli. Un dialogo ipotetico fra un padre ed un figlio che non ha molta voglia di fare nella vita, e da qui il nome appunto Gli sdraiati. Tutto nasce, come racconta Serra, da un conflitto generazionale. È come se fosse sempre esistito un conflitto, no? tra le generazioni, ma non ci fosse più il campo di battaglia, fosse scomparso. Il conflitto con i miei genitori era frontale, anche perché io vengo da una famiglia di destra e quindi insomma gli anni 60-70 sono stati vissuti da me come una vera rottura con la mia famiglia. Però guardavamo lo stesso telegiornale, io e i miei genitori litigavamo su quel telegiornale, banalizzando. Mio padre diceva ragione la polizia, io dicevo ragione gli studenti. Adesso non c'è più lo stesso telegiornale, adesso è come se, ripeto, il campo di battaglia ci fosse stato sottratto sia a noi genitori che ai figli, e siccome il conflitto è molto formativo, come può certificare chi abbia vissuto insomma gli anni in cui mi sono formato io, insomma, sicuramente aiutava a crescere, faceva venire voglia anche di andare via di casa, che insomma non è una banalità, no? Si voleva essere più liberi di autodeterminare le proprie giornate, i propri orari. E adesso non c'è più neanche quel conflitto, perché i figli autodeterminano le proprie giornate e i propri orari in tutta tranquillità dentro casa, dentro la casa dei genitori. E quindi non lo so, cioè forse i genitori hanno qualche ragione di sentirsi in colpa per non aver esercitato un'autorità persino arbitraria, ma insomma comunque per non averla esercitata, e quindi aver levato ai figli una sponda così, così importante come come il conflitto tra genitori e figli. Peraltro il padre del mio libro, e questo forse è il punto più forte del libro, sa che sarebbe un simulatore se facesse finta di essere autoritario. Dice: io non ho le tavole della legge da trasmettere, ed è la pura verità. E quindi forse sia i padri che i figli sono figli della stessa confusione in questo momento, cioè è uno slabbramento, è un deterioramento di codici e di regole e di leggi che riguarda tutte le persone, indipendentemente dalla loro età anagrafica. I ragazzi, i giovani, non sono solo sdraiati, come dice Michele Serra nel suo libro, perché ci sono tanti ragazzi che qui al Festival Letteratura di Mantova fanno i volontari. Allora, non ci giriamo intorno, sicuramente per i ragazzi è un'occasione per stare insieme, indipendentemente dal fatto che piaccia o non piaccia leggere, si sia appassionati lettori o meno. Come sentirete dai loro racconti, dalle loro voci, appunto non tutti amano leggere, quindi non stiamo facendo la santificazione del volontario del Festival di Mantova, ma sicuramente sono dei ragazzi che, come direbbe Serra, in questo caso non sono affatto sdraiati. Io ho 20 anni, faccio volontario da 5 quest'anno, è bello, da N punti punti di vista, un po' la gente, un po' il fatto di vedere sempre, come ha detto prima, la città che finalmente è piena invece che gettarsi da un angolino all'altro comunque non c'è niente, un po' perché insomma a me leggere piace, ci sono un sacco di argomenti interessanti da cui pescare, è un po' una risorsa anche per raccogliere nuove idee per, non dico un anno, però 6 mesi ci campi. Personalmente sono molto interessato all'argomento dello sfruttamento delle risorse, ma anche all'alimentazione. Questo è il terzo anno che faccio volontario, più che altro lo considero anche come un arricchimento personale. Ma tu sei un lettore, a te piace leggere? Diciamo che la lettura l'ho scoperta recentemente, però devo dire che è stata una bella scoperta. Allora, io non leggo tantissimo, lo ammetto, anzi non leggo niente, però insomma mi piace comunque dare una mano per far evolvere la letteratura. Per il clima che c'è al Festival di Unione. Ma tu sei una lettrice o no? Ho letto un libro di Erich Manuel Schmidt quest'estate e mi è piaciuto perché mi ha fatto riflettere sul fatto di come prendere la vita, sul fatto di poter cambiare la propria situazione anche quando sembra disperata. Il cacciatore di libri. E quest'anno al Festival sono state protagoniste anche le fiabe potremmo dire per grandi e piccini, veramente per qualsiasi età, perché si tratta di fiabe d'autore, fiabe che sono state scritte da autori, diciamo, che hanno fatto la letteratura italiana del Novecento, e devo dire che si scoprono delle cose molto interessanti, perché veramente degli autori affermati si erano dedicati quasi come fosse un'oasi di libertà durante la propria carriera, appunto alla scrittura delle fiabe. I visitatori del festival hanno potuto toccare con mano queste favole d'autore del Novecento, perché sono state portate qui a Mantova alcune appunto edizioni rare, preziose, proprio in versione cartacea, e molte altre erano invece in versione digitale, potevano essere consultate su uno schermo. Il progetto delle fiabe è stato curato da Luca Scarlini, a lui la parola. Diciamo che le fiabe italiane del Novecento sono un catalogo enorme di meraviglie, anche perché a parte Pasolini e un altro paio di nomi, più o meno tutti gli scrittori, soprattutto i più insospettabili, hanno scritto fiabe. Ad esempio Alberto Arbasino, che ha scritto una bizzarra fiabola fashion negli anni 70 con Giosetta Fioroni all'illustrazione, intitolata Luisa col vestito di carta, con tanto di carta modelli. Oppure a inizio Novecento, in questo vivaio straordinario che erano le riviste per bambini come Il Giornalino della Domenica e Il Corriere dei Piccoli, i nomi sono veramente altisonanti, perché si va da Guido Gozzano, mia particolare passione, a Massimo Bontempelli, piuttosto che a Elsa Morante, che debutta sul Corriere dei Piccoli all'età di 11 anni, perché il Corriere dei Piccoli, come Il Giornalino della Domenica, aveva questa geniale attività di incentivare la scrittura dei lettori, e quindi lei di fatto è una scrittrice pubblicata e retribuita all'età di 11 anni. E le avventure di Caterì, poi ribattezzate le straordinarie avventure di Caterina, sono l'origine da cui deriva Menzogna e Sortilegio. Quindi il problema è sempre lo stesso, l'Italia è massacrata da questo ideale crociano-gentiliano, che poi non si deve né a Croce né a Gentile, si deve ai loro pessimi epigoni. Poesia non poesia, non esiste genere, non esiste artigianato. Molto spesso queste favole o queste fiabe sono artigianali. E tra l'altro alcune sono dei veri e propri gioielli, sono stati anche dei bestseller al loro titolo. Ad esempio negli anni 70, me lo ricordo da ragazzetto alle medie, Le avventure di Pierino al mercato di Luino di Piero Chiara, un gioiello di storie del Lago Maggiore, assolutamente autobiografiche, dove l'autore si rappresenta per quello che era, cioè una specie di hooligan che creava disastri a ripetizione e compiva malefatte, che negli anni 70 ebbe un successo di vendite anche notevole. Quindi la questione è un po' quella: perché un autore come Piero Chiara, che scriveva Storia del Lago, scrive favole, o perché le scrive Arbasino, così colto, sperimentale? Perché c'è un momento in cui bisogna mollare la propria identità e sperimentarsi in un'altra dimensione, e la favola è quella che lo permette meglio, anche perché non è recensita. La critica ufficiale paludata, noiosissima, si occupa solo dei propri simili e non si occupa, se non raramente, dell'invenzione. E non è per caso quindi che in questo catalogo, dove veramente mancano pochissimi nomi per chiudere l'intera storia della letteratura italiana, ci siano anche lì stati dei bestseller legati anche a dei grandi editori, e un nome in specie emerge, che è quello di Roselina Archinto, che con la casa editrice M tra anni 60 e 70 ha commissionato i più grandi scrittori e i più grandi designer e artisti italiani. Ma secondo te le favole appunto letterarie italiane del Novecento possono piacere ai bambini di oggi? Qui al Festival Letteratura di Mantova ci sono diversi incontri che servono a far conoscere queste fiabe, come si dice, a grandi e piccini. La risposta è sì, perché i bambini, ad esempio, ascoltare Viperetta, la strana bambina cattivissima che ha dei capricci mostruosi nei capelli ricci e che è talmente malvagia che questi ricci la portano sulla luna, dove distrugge la vita dell'imperatore e dell'imperatrice della luna con la sua cattiveria, i bambini si identificano tantissimo, anche se la favola di Antonio Rubino, grandissimo illustratore, è del 1912. Quindi in realtà il problema è che, come sempre, le cose non piacciono se non si conoscono. E alcuni studiosi che sono venuti, o collezionisti, sono rimasti abbastanza colpiti da questo libro che si chiama Storia di un micino bigio, di una gallina nera e di una marmottina prigioniera, di Pina Gonzales, che è un nome che certamente non è passato agli annali letterari, ma l'illustratore è sconvolgente perché è Mario Sironi. Unico libro mai illustrato in tutta la sua vita di fiabe, in cui Sironi riversa al meglio la sua pittura post-metafisica a metà anni 20. Quindi, come dire, i bambini sono sempre meno scimuniti di quanto noi li vogliamo rappresentare, e la lettura, come è noto, esalta tutta una serie di potenzialità, ma anche l'ascolto, ovviamente, che talvolta si danno un po' per perdute. In realtà, come sempre, l'immaginazione non ha bandiera e non è necessariamente regimentata all'ultimo gioco del momento, da quello che scarichi sul cellulare, dall'app più fashion o quello che te pare. E la cosa curiosa è che questo mescolamento tra adulti e non adulti nostalgici, perché anche per molti adulti, anche più grandi di me, queste fiabe sono ignote, anche perché molte di queste sono veramente non edite da oltre 80 anni. Però dopodiché uno le legge e dice: ma come sono divertenti! E questo era Luca Scarlini, curatore del progetto delle fiabe d'autore del Novecento. A proposito di fiabe, beh, si sa, le fiabe, abbiamo detto, sono un po' per tutte le età, però sono dirette soprattutto ai bambini. Come sempre, qui al Festival Letteratura sono molti gli incontri che vengono dedicati appunto a bambini e ragazzi. Ci sono laboratori pratici, ma anche presentazioni dei libri, chiacchierate molto informali che vengono fatte fra scrittori appunto e giovani lettori. E fra i vari autori per bambini e per ragazzi abbiamo fatto una chiacchierata con Matteo Corradini, che ora è in libreria con il romanzo Anna Lilla, pubblicato da Rizzoli. Sentiamolo. Anna Lilla è un personaggio un po' strano, perché vive una settimana che tutti noi abbiamo vissuto, che è l'ultima settimana di scuola, che è una settimana un po' particolare, forse è la settimana più bella di tutto l'anno scolastico, è quella in cui uno comincia a sentire il profumo dell'estate, comincia a sentirsi libero. Lei però la vive in un modo particolare, proprio perché con un trucchetto riesce a rimanere in casa da sola, o meglio da sola con una nonna che è bloccata a letto. Lei all'inizio sembra così, sembra avercela fatta, ha realizzato il suo sogno di libertà totale. In realtà poi cominciano i guai, e Anna Lilla è una ragazza di 11 anni che affronta tutte queste cose per la prima volta, e quindi noi seguiamo il percorso di Anna Lilla con i suoi occhi, un po' come se fossero i nostri, anche se non abbiamo l'età di Anna Lilla, o anche se non abbiamo il sesso di Anna Lilla, perché io sono maschio, ho 39 anni, Anna Lilla è ragazza e ne ha 11. Qual è la fascia di età a cui è destinato questo romanzo? Pensavo soprattutto ai ragazzi e alle ragazze dai 10-11 anni in su. In realtà Anna Lilla vive alcune cose, alcuni episodi che vive Anna Lilla sono episodi anche più intensi rispetto all'età sua. E per certi versi oggi avere 11 anni è più facile di un tempo, e per altri invece a 11 anni le ragazze soprattutto vivono tanti cambiamenti che un tempo invece non vivevano. Forse diventano adulte e giovani più in fretta, e questo le mette di fronte a tante scelte complicate, e spesso devono buttarsi, le ragazze soprattutto, devono lanciarsi in un'avventura e vedere come andrà. Ad Anna Lilla va proprio così. Quando uno scrittore per bambini come te, appunto per bambini e ragazzi, insomma, ha un'idea per scrivere un romanzo, da cosa parte? Da un personaggio, dalla sua fantasia, o dall'idea di mandare un messaggio e quindi poi ci applica una serie di personaggi intorno? Se io parto dal messaggio, spesso scrivo male. Questo non vuol dire che scrivo meglio o scrivo bene se non parto dal messaggio, però vuol dire che la mia scrittura è più onesta se non parto dal messaggio. Scrivere per me vuol dire raccontare una storia, e la storia di Anna Lilla a me serviva per raccontare Anna Lilla, punto. E per raccontare quanta Anna Lilla c'è dentro di me. È strano dirlo, ma forse in uno scrittore ci sono dentro un po' tutti i suoi personaggi. E questo mi è uscito così. Non so se ad altri o ad altre piacerà. E non so se ad altri o ad altre, se altri o altre contengono in sé un pochino di Anna Lilla. Però questo è il desiderio di ogni libro, insomma, di entrare un pochino nella testa degli altri. I giovani non sono solo lettori, ma possono essere anche scrittori. Per quanto riguarda l'aspetto lettura, ormai lo sappiamo, le statistiche ce lo raccontano negli ultimi anni, la fascia, diciamo, di lettori più forti si trova in genere fra gli 11 e i 14 anni, insomma, poi dopo i 18 si inizia decisamente a calare. Quindi è proprio lì, è proprio a quel mercato che spesso pensano gli editori, perché bisogna coltivare i piccoli lettori per avere dei lettori in futuro. A parte questo discorso, però, dicevamo, ci sono anche degli scrittori giovani, veramente giovani, cioè al di sotto dei 30 anni. E al Festival Letteratura c'è proprio un'iniziativa che si chiama Scritture Giovani, ormai da diversi anni, che mette a confronto, fa conoscere, mette in contatto tre giovani scrittori di Italia, Germania e Galles. Perché questi tre paesi? Perché questi tre paesi sono legati anche da tre festival letterari decisamente importanti, e quindi questi giovani autori poi si fanno un po' il giro, appunto, dei festival per far conoscere la loro opera. Nello specifico, a Scritture Giovani, gli scrittori delle varie nazionalità partecipano con un racconto a tema. Quest'anno il tema era Sarajevo. Il cacciatore di libri. E riprendiamo con lo speciale Cacciatore di Libri dedicato al Festival Letteratura di Mantova. Stavamo parlando di Scritture Giovani, questo progetto del festival che ormai c'è da diversi anni, che vuole scovare, insomma, nuovi talenti a livello internazionale. Dicevamo, un giovane scrittore viene dall'Italia, uno dalla Germania e uno dalla Gran Bretagna, in particolar modo dal Galles. L'Italia quest'anno era rappresentata da Luca Giordano. Luca Giordano, opera prima Qui non crescono i fiori, pubblicato da ISBN. Un romanzo che ho trovato interessante, ben scritto, una scrittura particolare molto secca, tranchant, una trama accattivante. Insomma, uno scrittore da tenere d'occhio. E allora abbiamo parlato con Luca Giordano, innanzitutto gli abbiamo chiesto, insomma, che cosa si aspetta da Scritture Giovani, che cosa Scritture Giovani può dare ad un autore italiano di 29 anni. Sentiamolo. Sicuramente la possibilità di conoscere altri scrittori della metà di altri paesi, e quindi di confrontarmi con loro, con le situazioni che ci sono nei loro, appunto, paesi. Siamo uno scrittore italiano, io e poi uno scrittore tedesco e una poetessa gallese, quindi confrontarsi con altri scrittori o comunque con lettori di altre nazionalità è sempre comunque interessante e stimolante. Voi girerete tre festival letterari in Europa. Secondo te questo è anche un modo per far conoscere all'estero, per esempio, il tuo primo romanzo che si intitola Qui non crescono i fiori, pubblicato in Italia da ISBN, quindi magari, non so, la possibilità anche di tradurlo all'estero? Sicuramente c'è questa possibilità, ed è anche bello perché comunque il nostro racconto è stato tradotto nelle nostre tre lingue, quindi già il racconto viene letto da lettori di altri paesi, di altre lingue. In Inghilterra magari è un po' più difficile per la traduzione per noi italiani, ma magari in Germania questa possibilità c'è o ci può essere, quindi è sicuramente una cosa interessante da questo punto di vista. Il tuo primo romanzo, Qui non crescono i fiori, a me è piaciuto molto, lo trovo un libro interessante, bello, intenso, con una scrittura a volte così, un po' tranchant. Stai cercando ancora il tuo stile come giovane scrittore o pensi che sia quello il tuo modo di scrivere? No, non credo che sia quello, probabilmente quello era quello che mi serviva per raccontare quella storia. Poi sto cercando anche il secondo romanzo che sto scrivendo, ha uno stile molto diverso, sto cercando di migliorarlo, ma allo stesso tempo di cambiare alcune cose che magari non sono adatte per un altro tipo di storia. Un ragazzo a 29 anni in Italia può vivere solo di scrittura? No, non può vivere solo di scrittura se non ha la fortuna di scrivere un bestseller o comunque un libro che vende una quantità di copie enorme, quindi no, non si può vivere solo di scrittura, però comunque quella può essere una soddisfazione che ti aiuta anche negli altri lavori. Da dove ti vengono le idee per scrivere così, in questo caso un romanzo, ma anche il racconto per il Festival Letteratura di Mantova? Spesso da articoli di cronaca che poi mi rimangono in testa e poi io cerco di elaborare, da cui mi allontano completamente, però sicuramente la cronaca è qualcosa che mi aiuta. L'abbiamo detto all'inizio della trasmissione di questa puntata speciale del Cacciatore di Libri dedicata al Festival Letteratura di Mantova. Nel telegramma che è stato inviato qui al Festival dal Presidente della Repubblica Napolitano si faceva cenno all'importanza della memoria e a come la memoria veniva in un certo senso celebrata in queste giornate mantovane. E in effetti la memoria è stata celebrata perché, vabbè, lo sappiamo, quest'anno è il centenario dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale e ci sono stati anche qui a Mantova diversi incontri sul tema. Tra l'altro è un periodo in cui ci sono stati anche diversi romanzi, quindi diverse storie di fiction che si sono ispirate alla Prima Guerra Mondiale o al periodo immediatamente precedente o immediatamente successivo. Sicuramente uno degli scrittori qui presenti che ha avuto più successo con un romanzo ambientato appunto subito dopo la Prima Guerra Mondiale è il francese Pierre Lemaitre con il romanzo Ci rivediamo lassù, pubblicato in Italia da Mondadori. Un romanzo che in Francia ha vinto il premio letterario più prestigioso, ma devo dire che anche da noi in Italia è un romanzo che ha avuto un certo successo, sia di critica che di pubblico. E pare che insomma il tema della Prima Guerra Mondiale vada un po' di moda fra i francesi, perché c'è stato anche uno scrittore d'Oltralpe, Jean Raffin, che ha appena pubblicato in Italia Il collare rosso per EO. È una storia molto particolare, insomma ci sono diversi personaggi, c'è un eroe di guerra che viene incarcerato in caserma, c'è qualcuno che deve decidere della sua sorte, insomma tutto è ambientato nel 1919 alla fine della Prima Guerra Mondiale. Ma è un po' una coincidenza che ci siano tutti questi romanzi ambientati appunto in quel periodo? Sentiamo Ruffin. Per gli altri no, non lo so, ma per me è stata una coincidenza perché avevo un amico fotografo che mi ha contato la storia del suo nonno, che era una storia molto, una piccola storia, dopo la guerra della Prima Guerra Mondiale. Questo uomo aveva ricevuto una decorazione importante in Francia, la Legion d'honneur, che era la più importante, e un giorno, dopo aver bevuto un poco troppo, ha preso questa decorazione e l'ha messa sul cane, aveva un cane, ha decorato il cane e ha attraversato il suo paese con questo cane, con la decorazione. E mi è piaciuto questa piccola storia e ne ho fatto un romanzo, perché attraverso del personaggio di quest'eroe e di cane c'è tutta la problematica del come essere umano nella guerra, chi è umano e chi è un animale nella guerra. Nella guerra gli uomini si comportano come animali perché è per quello che sono pagati e che sono forzati di fare questo. L'animale è un eroe, alcuni sono stati decorati veramente dopo la guerra, ma finalmente il comportamento umano vero è di oltrepassare questo livello dell'animale e forse di riconoscere nel nemico un fratello, quello che il cane non può fare. E la storia del libro è, a proposito di questo cane, è dimostrare che è fantastico, è fedele, è coraggioso, è tutto, ma non è umano e non può a un certo punto capire che bisogna smettere con la guerra e passare a qualcos'altro. Lei ha partecipato anche a diverse missioni umanitarie, ha visto, immagino, dei territori anche in guerra, insomma. Che idea si è fatto? Che le guerre sono un po' tutte uguali? che la mente umana alla fine appunto diventa quasi animalesca un po' in tutte le guerre, o ci sono delle differenze a seconda anche della cultura in cui nasce una guerra, si combatte e così via? O siamo tutti uguali di fronte alla guerra? No, sono tutte diverse, ma penso che ci sono delle cose similari. La prima guerra mondiale è probabilmente il modello della peggiore, della più terribile delle guerre, perché questo face a face, questa posizione così degli eserciti per anni, vivendo a 10 metri uno dall'altro e si ammazzando così, è il peggiore modello. Non voglio dire che ci sono buoni modelli, ma non ha niente da vedere per esempio con Hiroshima, che in un quarto di seconda ci sono 200.000 morti. Non voglio dire che io preferisco uno contro l'altro, ma penso che la durezza, la lunghezza di questa guerra ne fa un tipo di esperienza quasi di laboratorio di quello che può succedere all'uomo quando entra in questa logica della vittoria o della sconfitta. E questa logica della vittoria o della sconfitta è una logica senza soluzione, perché nessuno ha guadagnato la prima guerra mondiale, tutti hanno persi. In un certo senso fare un focus sulla prima guerra mondiale è servito anche a mettere a fuoco quello che sta accadendo negli ultimi tempi, proprio negli ultimi mesi, visto che ormai i telegiornali sono pieni di notizie di guerre o di crisi internazionali. E al Festival Letteratura di Mantova si è parlato molto di attualità, sia con i saggi che attraverso dei romanzi. Per esempio c'è stato uno scrittore ucraino, Andrei Kurkov, che è uno scrittore insomma anche abbastanza noto all'estero, nel senso che è stato tradotto in oltre 30 lingue, che ha parlato del suo ultimo libro, Diari Ucraini, pubblicato in Italia da Keller. È un romanzo saggio in cui è proprio un resoconto, insomma, su quanto accaduto a Kiev fra novembre del 2013 e aprile del 2014. Durante l'incontro Kurkov ha anche sottolineato che l'Europa si è un po' ammutolita. Insomma, come sempre al Festival Letteratura si incrociano storia, memoria con la realtà, con l'attualità, e poi ancora la fiction con la non fiction, insomma la narrativa con la saggistica. È un festival decisamente per tutti i gusti. Anche quest'anno c'è stato un notevole pubblico, insomma al di là poi dei numeri stretti possiamo dire che è stata un'edizione sicuramente apprezzata dal cosiddetto pubblico dei lettori. Un'edizione che ha dato diversi spunti su cui riflettere, ha fatto conoscere degli scrittori fino adesso poco noti in Italia, soprattutto scrittori stranieri, ma insomma ha riconfermato anche il successo di alcuni scrittori già affermati. L'abbiamo già ricordato, il premio Pulitzer Elisabeth Strout, ma anche il premio Pulitzer, l'altro premio Pulitzer, Michael Cunningham, che questa sera concluderà, sarà il protagonista dell'evento conclusivo. È uno scrittore tra l'altro molto amato in Italia. Ci sono state riconferme anche fra gli italiani, l'incontro con Alberto Arbasino, insomma i suoi ritratti folgoranti hanno di fatto scritto la storia dell'Italia degli ultimi decenni. Ma poi insomma ci sono stati anche altri scrittori italiani noti come Stefano Benni, Francesco Piccolo, premio Strega del 2014, scrittori umoristici e scrittori magari drammatici, giallisti, scrittori di genere, scrittori non di genere. Anche per questa puntata speciale del Cacciatore di Libri, dedicata al Festival Letteratura di Mantova 2014, è tutto. Vi ricordo che potete trovare anche questa puntata su radio24.it, c'è naturalmente sempre il podcast, ci potete contattare a ilcacciatoredilibri@radio24.it, ma anche su Facebook, il Cacciatore di Libri trattino Radio 24, e infine se volete potete seguirmi anche su Twitter come Ale Teddina. Da Mantova è tutto, una buona lettura da Alessandra Tedesco.